Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma tu voliva a pizza, capumarola angoppa. Ma tu voliva a pizza, capumarola angoppa, a pizza e niente più. E niente più, anzi ne abbiamo tante di cose, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da proporre all'UNESCO. Però adesso è stato deciso ufficialmente, notizia di poco fa, che la pizza napoletana è la candidata italiana per l'ingresso alla lista del patrimonio immateriale dell'umanità presso l'UNESCO. Immaginiamo che sia candidata e che verrà accolta, naturalmente. Chi non accoglie la pizza, ognuno poi se la trasforma a modo suo nel mondo, almeno in questo siamo stati maestri. Parleremo naturalmente anche di altre cose, questa è la pizza, giusto per iniziare un po' più sollevati del solito, ma inevitabilmente dobbiamo tornare sulla catastrofe aerea, perché c'è stata questa svolta incredibile oggi. Chi se lo sarebbe aspettato, almeno diciamo comuni cittadini? In realtà delle ipotesi erano state fatte, che qualcuno aveva potuto decidere, dei piloti, di andare proprio deliberatamente contro la montagna. Purtroppo ne parleremo in modo approfondito con un pilota professionista e anche con uno psichiatra. E quello cui chiederei di rispondere questa sera come domanda, sempre attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso gli SMS al 349-238-6666, è a proposito di un passaggio che c'è stato oggi. C'è un primo sì in Senato sulle unioni civili. I favorevoli hanno detto è finalmente una conquista di civiltà, mentre i detrattori dicono è un attacco alla Costituzione, si rischia di buttare all'aria la famiglia. Voi cosa ne pensate? Siete favorevoli alle unioni civili oppure no? 349-238-6666 e poi la pagina Facebook di Effetto Notte, che lì a qualsiasi ora, in qualsiasi momento, in qualsiasi giorno dell'anno. Quindi vari temi, parleremo anche di Alonso, però intanto vi racconto la giornata. L'aereo precipitato, si indaga sul passato del copilota della Germanwings, che ha fatto schiantare di proposito l'Airbus. Aveva superato tutti i test, non si parla di atto terroristico. Occupazione, Renzi e Poletti dicono nei primi due mesi del 2015 più 79.000 contratti a tempo indeterminato rispetto a un anno fa per i giovani dai 15 ai 29 anni, un aumento sopra il 40%. L'Arabia Saudita bombarda postazioni dei ribelli sciiti in Yemen, appoggio anche da parte della Lega Araba. Unione Civile, il primo sì del testo base in commissione al Senato, favorevoli PD e Movimento 5 Stelle, votano contro Nuovo Centrodestra, Forza Italia e Lega. Decreto antiterrorismo, Renzi stralcia la norma anti-privacy sui computer e per la Formula 1 Alonso torna in pista in Malesia, nessun dubbio sul rientro, il pilota nega che una scossa elettrica sia stata la causa dell'incidente. E partiamo quindi dal disastro aereo in Francia. A causare soprattutto la morte di 150 persone sarebbe stato volontariamente il copilota Andreas Lips, 28 anni, tedesco, che ha approfittato della temporanea uscita del comandante dalla cabina di pilotaggio per blindarsi dentro e dirottare l'Airbus 320 dritto dritto contro le Alpi francesi. Secondo l'amministratore delegato di Lufthansa, perché la compagnia Germanwings fa parte di Lufthansa, il giovane pilota avrebbe superato tutti i test psicofisici. Oggi gli investigatori hanno perquisito la sua casa, stanno indagando naturalmente sulla sua vita, ma dopo, come dicevo, torniamo a parlarne col presidente dei psichiatri italiani e con un pilota professionista. Forse bisognerebbe approfondire, come accadde per l'aereo famoso malaysiano, anche l'esistenza di questi due piloti, come dire, il passato, perché potrebbero esserci anche delle ombre. E questo aveva detto Mariano Maugeri ieri, inviato del Sole 24 Ore, che era sul posto del disastro. Ieri qui a Effetto Notte aveva così ipotizzato la necessità, come avete sentito, di provare a indagare sulle vite dei piloti. Così, diciamo, a livello di massa, di grande opinione pubblica, questo non era molto stato evidenziato. Evidentemente però gli investigatori erano già in questa direzione, ma Maugeri ieri ce l'aveva detto proprio dal luogo della tragedia. E così si è rivelato purtroppo vero, fondato. Parliamo di occupazione, vi dicevo, con buone notizie del mercato del lavoro. Aumentano i contratti a tempo indeterminato, ma i dati in realtà si riferiscono al periodo precedente all'entrata in vigore del Jobs Act. 79.000 contratti a tempo indeterminato in più nei primi due mesi dell'anno rispetto a gennaio-febbraio 2014, con un balzo del 32,5% a gennaio e di oltre il 38% a febbraio, e le percentuali crescono per i giovani tra i 15 e i 29 anni. Numeri assolutamente positivi, spiega il ministro Poletti, che li ha ufficializzati oggi, mentre un'anticipazione era arrivata poco prima da Matteo Renzi. È un giorno importante, ha detto il premier. Sono dati veramente sorprendenti, dimostrano una crescita a doppia cifra e dunque il segnale che l'Italia riparte. E un'Italia che riparte grazie anche alla legge di stabilità, fa notare indirettamente il Ministero del Lavoro, che ha introdotto sgravi contributivi per 3 anni per quelle aziende che assumono a tempo indeterminato. Secondo i dati forniti dall'INPS 10 giorni fa, a farne richiesta dall'1 al 20 febbraio sono state 76.000 imprese. In molti casi si tratta della stabilizzazione di rapporti di lavoro precari. Non c'è ancora invece visibilità sull'impatto del nuovo contratto a tutele crescenti contenuto nel Jobs Act ed entrato in vigore lo scorso 7 marzo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di occupazione, il governo ha concesso 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per la crisi aziendale di Meridiana, per avere il tempo di trovare un nuovo piano di sviluppo. Oggi c'è stato un incontro tra il Ministero dello Sviluppo, l'azienda e i sindacati. Il prossimo incontro si terrà il 7 aprile. E poi il decreto legge antiterrorismo, il ministro dell'Interno Alfano ha fatto sapere che il governo tornerà a discutere di intercettazioni telematiche, in particolare della misura che prevede l'acquisizione di dati da remoto, come si dice, praticamente dai PC dei cittadini, stralciata da parte di Renzi dal provvedimento sull'antiterrorismo. Una norma che è stata molto contestata perché potrebbe significare la possibilità di mettere sotto controllo appunto i computer dei cittadini. Dopo la denuncia di Scelta Civica e i rilievi del garante per la privacy, arriva lo stop del governo. Palazzo Chigi blocca la contestata norma inserita nel decreto antiterrorismo, che avrebbe consentito alle forze dell'ordine di acquisire da remoto e quasi senza limiti tutti i dati contenuti nei personal computer, nei tablet e negli smartphone dei cittadini. La novità era stata introdotta da un emendamento presentato dallo stesso governo durante l'esame del provvedimento in commissione alla Camera. Oggi però il premier Renzi ne ha chiesto e ottenuto lo stralcio. È stato cancellato anche l'emendamento che allungava i tempi per la conservazione dei dati sul traffico telematico acquisiti durante le indagini. Il ministro dell'Interno Alfano ha fatto sapere che la stretta sul web indispensabile per fronteggiare il terrorismo islamico verrà affrontata in maniera più articolata nel disegno di legge sulle intercettazioni in discussione sempre a Montecitorio. Positivo il commento del garante per la privacy, secondo il quale lo stralcio della norma consentirà un supplemento di riflessione quanto mai necessario quando sono in gioco libertà e diritti fondamentali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restando sulla politica, oggi in Commissione Giustizia al Senato c'è stato il primo sì, vi dicevo, alle unioni civili. Hanno votato a favore PD e Movimento 5 Stelle, contro invece il Nuovo Centrodestra, Forza Italia e la Lega. Poi ne parleremo con la relatrice del PD Cirinnà e con il senatore Malan di Forza Italia. Potete esprimervi anche voi, naturalmente, su questo argomento sulla pagina Facebook di Effetto Notte o attraverso gli SMS al 349-238-6666. Si torna a parlare di Silvio Berlusconi, perché verserebbe bonifici sistematici e mensili da 2.500 euro a 10 ragazze che non sono tra quelle indagate nel fascicolo dell'inchiesta Rubiter. E quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, in particolare da un verbale del ragioniere Giuseppe Spinelli, alcune delle giovani avrebbero partecipato a serate nelle residenze dell'ex premier. Estero, parliamo di Yemen. Questa notte caccia sauditi hanno bombardato postazioni dei ribelli sciiti antigovernativi Uti e si contano una ventina di morti. L'azione saudita è supportata anche dall'Egitto, che ha inviato 4 navi da guerra verso il Golfo di Aden, dalla Turchia e dagli Stati Uniti. Anche la Lega Araba sostiene l'operazione, mentre Hezbollah sciita libanese si unisce all'Iran per condannare quella che ritengono un'aggressione da parte dell'Arabia Saudita allo Yemen. Intanto Amnesty International, citando funzionari ospedalieri, testimoni oculari, denuncia che ci sono almeno 6 bambini sotto i 10 anni tra le 25 persone uccise oggi negli attacchi aerei guidati dall'Arabia Saudita nella capitale yemenita Sana'a. E torniamo di nuovo in Italia. Oltre 4.000 tonnellate di gasolio sono state introdotte clandestinamente in Italia dal 2013 ad oggi, con un'evasione di accise di 15 milioni di euro. L'inchiesta condotta dalla Procura di Roma ha portato ad 8 arresti e decine di perquisizioni in Italia e altri 5 paesi europei. Il colonnello Edoardo Moro, comandante del gruppo del nucleo di polizia tributaria di Roma. Stiamo parlando di un fiume di gasolio introdotto clandestinamente in Italia, caricato in Germania e poi destinato a una rete capillare di acquirenti sul territorio italiano, sostanzialmente grossisti del settore che poi lo ridistribuivano e poi prevalentemente società di autotrasporto che quindi incameravano direttamente il prodotto per rifornire i propri mezzi di trasporto. Non abbiamo al momento evidenze di impiego di questo carburante clandestino all'interno delle pompe tradizionali, quindi dei distributori di carburante dedicati ai cittadini. Stiamo parlando di 28 milioni di litri in 2 anni di gasolio per autotrazione clandestinamente introdotto in Italia. C'è tutta una rete di società di comodo che simulavano l'acquisto del prodotto e lo avrebbero destinato a Malta e Grecia. In realtà il prodotto era in transito in Italia e in Italia si fermava. E vedo una notizia di pochi istanti fa dalle agenzie: un'esplosione a Manhattan nel cuore di New York, oltre 25 autobotti, 100 pompieri e un altro centinaio di agenti sono sul posto dell'esplosione a Manhattan per contrastare le fiamme che dall'edificio in cui si è verificata l'esplosione si sono diffuse rapidamente anche a quello accanto e sono in arrivo rinforzi dei soccorsi. Ma speriamo che si circoscriva qui la faccenda. Adesso restiamo sulle cose più leggere: trattenere a scuola i ragazzi che di studiare non ne vogliono più sentir parlare. In Emilia Romagna ci sono riusciti. In che modo? Grazie al progetto DAISY, Dual Education System Italy, ispirato al modello duale tedesco. Ieri la ministra dell'istruzione Giannini ha inaugurato a Sant'Agata Bolognesi 2 training center di Ducati e di Lamborghini. 48 ragazzi hanno trascorso sui banchi i primi mesi di quest'anno scolastico e ora li aspettano 700 ore di pratica sul campo, come spiega Umberto Tossini, direttore delle risorse umane della Lamborghini, al microfono di Maria Piera Ceci. I ragazzi sono, diciamo, accomunati dalla passione per i motori e intravedono effettivamente in questa opportunità la chance di misurarsi con qualcosa di concreto. Smanettare con i motori non è esattamente come studiare, non so, filosofia, insomma. Effettivamente la chiave di successo su cui noi puntiamo, una delle chiavi di successo è anche questa, cioè cercare di coinvolgerli su un argomento che sicuramente li intriga, non in una dinamica di lezioni frontali, ma in una dinamica di learning by doing. Lavorare su una Lamborghini, lavorare su una moto Ducati significa lavorare su oggetti di eccellenza tecnologica e diciamo di grande appeal. Questo progetto, glielo sto chiedendo, vuole anche in qualche modo tenere agganciati in qualche modo alla formazione ragazzi che altrimenti andrebbero persi? È così, perché erano persone che avevano conseguito la qualifica professionale e poi avevano abbandonato la scuola. Grazie a questo programma conseguono il diploma di scuola superiore e possono quindi sia scegliere di continuare gli studi che cercare un impiego, però con una certificazione della loro preparazione che è molto più appetibile, diciamo, in tutto il contesto anche della Motor Valley. E poi in chiusura lo sport: torna alla Formula 1 questo fine settimana e torna in pista dopo l'incidente anche Fernando Alonso, che ha saltato la prima gara. Da questa notte in Malesia le prime prove libere per il Gran Premio della Malesia, appunto, che si disputerà a Kuala Lumpur. Fra i temi poi affronteremo anche questo del ritorno di Alonso, di questo incidente misterioso in cui avrebbe perso la memoria, lui però nega, cioè, ne parleremo dopo. Invece adesso, se volete concentrarvi sulle unioni civili, tra poco torneremo a parlare dell'aereo con due esperti. Dicevo, il tema di stasera, se volete interagire con i vostri canali privilegiati, cioè con la pagina Facebook di Effetto Notte o con i messaggi al 349-238-6666, la domanda è questa: oggi è stato il primo sì al Senato sulle unioni civili, cosa ne pensate? Ci sono i favorevoli che dicono una conquista di civiltà, i detrattori invece un attacco alla famiglia, alla Costituzione. C'è per esempio MR, si firma: sono favorevole alla libertà, basta limiti, ognuno sia libero di fare le proprie scelte. Nino scrive: le soluzioni della politica prevedono problemi che la società affronta e comprende ben prima. Le unioni civili non sono né di destra né di sinistra, sono il segno di una condizione che attraversa la società senza distinzioni di censo, ideologia o altro. E poi fra i vari c'è per esempio Cristiano, che propone un referendum. Io propongo intanto di ascoltare la viabilità, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ecco, stavo guardando anche un aggiornamento sulla legge elettorale, è arrivato poco fa dalle agenzie. La riforma elettorale è stata calendarizzata in aula alla Camera per il giorno 27 aprile. Sapete che Renzi, il Presidente del Consiglio, la vuole far passare prima delle elezioni regionali, che dovrebbero esserci più o meno a fine maggio. Poi vedremo se slitteranno ulteriormente. Intanto vi ricordo appunto che i vostri messaggi possono arrivare al 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito delle unioni civili, oggi c'è stato il primo sì al Senato. Vi dicevo, Job scrive: l'unione civile evidenzia che lo Stato laico in verità è un ostaggio della Chiesa, altrimenti potevano modificare il matrimonio. Adesso andiamo sulle altre notizie. La strage dell'aereo è stata voluta dal copilota, ha fatto schiantare l'Airbus contro la montagna in modo deliberato. La procura dice non è comunque terrorismo e per Lufthansa il pilota aveva superato tutti i test. Vola l'occupazione in Italia più 38,4%, contratti a tempo indeterminato, esultano Renzi e Poletti, anche se questi risultati, questi dati sono precedenti all'entrata in vigore del Jobs Act. E poi c'è l'ultimatum di Renzi alla minoranza sull'Italicum, l'abbiamo visto aggiornamento poco fa, vi dicevo, dice non ci deve essere libertà di coscienza, qui bisogna seguire la direzione del partito, lunedì sarà sovrana. E poi il terrorismo, stop sul quel emendamento sulla contro, diciamo così, sulla privacy, che poteva in qualche modo compromettere la privacy nella legge antiterrorismo, oggi l'ha stralciata Renzi. E poi c'è l'offensiva araba nello Yemen, dove ormai c'è guerra aperta, Iran chiede di fermare questa escalation violenta. E poi al via la missione dei gemelli spaziali, un anno in orbita, uno sulla IS e l'altro a terra per preparare i viaggi su Marte. Sono due gemelli che dovrebbero far capire anche come reagiscono uno stesso organismo, uno stesso DNA in condizioni così diverse. E adesso ritorniamo invece sull'argomento che ci attanaglia da giorni, per non solo le dimensioni grandi di tragedia, ma poi con questa svolta che c'è stata oggi, vi dicevo, no? Si è schiantato sulle Alpi francesi con 150 persone. È una svolta, possiamo dire, incredibile, ma non tanto, perché ci sono stati ben quattro precedenti di piloti che sono suicidati, come vogliamo chiamare, dei criminali, perché uno, se si vuole suicidare, giustamente il suo gesto va massimamente rispettato, ma deve essere ovviamente una scelta individuale. E comunque l'analisi delle scatole nere non hanno lasciato dubbi. Questo schianto è stato provocato dal secondo pilota, dal copilota, che dopo essersi barricato in cabina in un momento in cui il comandante era uscito brevemente, probabilmente per andare alla toilette, ha lanciato quindi volontariamente l'aereo contro le montagne. È stata una questione, dice qualcuno, di minuti, perché poteva schiantarsi addirittura su una delle più grandi complessi sciistici del mondo, la Via Lattea, che si trova appunto sulle Alpi francesi. Per fortuna almeno questa ulteriore tragedia è stata evitata. Lui si chiama Andrea Lubitz, questo copilota 28enne tedesco originario di Montabaur, che è un piccolo paese di 13.000 abitanti nel ovest della Germania, dove viveva con i genitori. Vi dicevo che l'amministratore delegato di Lufthansa, che Lufthansa è poi la proprietaria di questa compagnia low cost Germanwings, ha detto che aveva superato il pilota brillantemente tutti i test medici e psicologici. Ha detto anche che di fronte a questi casi purtroppo non è possibile escluderli, perché possono accadere anche con tutte le possibili misure di sicurezza del mondo. Viene fuori poi, questa è un'indiscrezione che emerge dal quotidiano tedesco Faz, quotidiano online, secondo il quale Lubitz aveva sospeso il suo addestramento come pilota per una sindrome da burnout, una depressione insomma da stress. Questo l'avrebbe detto la madre di un'amica d'infanzia di Lubitz, con cui il 28enne si sarebbe confidato in passato. Insomma, sono tanti gli aggiornamenti che man mano stanno arrivando. Io comunque vorrei parlare di questa vicenda questa sera con Riccardo Canestrari, che saluto, coordinatore nazionale dei piloti ANPAC. Buonasera Canestrari. C'è Canestrari? Sta volando forse Canestrari, no, non so. Pronto? Ah, Canestrari, la pensavo già invece alla cloche, no, è tranquillo, no. Meno male. Poi c'è Claudio Mencacci, professore, psichiatra e già presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buonasera Mencacci. Buonasera a voi, sono a terra io. Ah, ecco, piedi saldamente per terra, al momento, naturalmente, sono cose che possono succedere così fatalmente una volta ogni... Canestrari, lei che è un pilota professionista e coordinatore nazionale dei piloti ANPAC, come ha vissuto questa vicenda? Si era già fatto lei un'idea, un'ipotesi di come poteva essere andata, conoscendo appunto il mestiere? Guardi, conoscendo il mestiere, proprio perché lo conosco, ho avuto e ho tuttora un atteggiamento estremamente prudente, perché contrariamente a quanto si dice, le scatole nere sono due, come è noto ormai. Sì. Diciamo, le affermazioni che sono state fatte oggi si basano sulla lettura di una di queste. E tra l'altro c'è un po' una strana anomalia, perché normalmente nelle investigazioni a seguito di incidenti aeronautici non vengono divulgate mai, se non dopo mesi, per cui infatti pensavo che passassero dei mesi, ma almeno settimane dovessero passare, invece è stato su immediato. Diciamo che da un punto di vista, ahimè, logistico, non ci sono i problemi che ci sono stati, per esempio, con incidenti passati, dove magari l'aeroplano finiva in mare, allora per recuperare comunque c'erano dei tempi tecnici ovviamente molto più prolungati, però il concetto è che i dati normalmente tutti i dati sia di questa scatola, diciamo, del registratore di voci, che di quello dei dati di volo, vengono utilizzati in modo assolutamente, come dire, riservato, fino a quando non si conclude un'inchiesta, che normalmente prevede, al netto delle difficoltà di recupero dei dati, dei tempi molto più lunghi. Per cui questo per me è un po' un'anomalia rispetto a ciò a cui sono abituato. È evidente che comunque, in base ai dati e alle cose che ho letto insieme a voi in questi giorni sui giornali, che ho potuto dedurre cose, questo è vero, l'abbiamo fatto anche con i nostri colleghi in associazione, e le possibilità erano molte. Oggi sembrerebbe restringersi il campo in modo significativo, e chiaramente siamo tutti abbastanza sorpresi da questo evento, qualora fosse confermato che fosse così. Canestrari, ci spiega anche questa storia della porta della cabina di pilotaggio blindata, che se poi uno esce lo si può chiudere dall'interno e non entrare più? Il comandante, immagino, cosa avete, una chiavetta, un codice, come si fa a rientrare? Diciamo che ci sono delle procedure che nascono a valle degli eventi del 2001, degli Torri Gemelle, che prevedono l'installazione di una porta blindata per evitare l'ingresso nel cockpit, cioè nella cabina di pilotaggio, da parte di persone malintenzionate. Per cui una persona che tenta di entrare non può farlo, perché dall'interno non è stato in grado di inibire l'apertura della porta. Questo se siamo attivi. È stato studiato in modo che se i piloti o il pilota che rimane solo perde i sensi, allora da fuori è possibile, con una procedura apposita, far aprire la porta. Ma questo deve avvenire quando davanti c'è qualcuno che non è più parte attiva. Se invece c'è davanti qualcuno che è parte attiva e decide di non far entrare più nessuno, a quel punto la porta non si apre più. Leggevo che stasera proprio sia la compagnia britannica EasyJet sia la stessa Alitalia hanno deciso che da domani ci sarà un secondo pilota nella cabina di pilotaggio. Ci sono almeno due persone dell'equipaggio, insomma, queste comunque erano due. Cosa significa? Che uno non si può alzare, per esempio, per andare a fare la pipì, che ne so. Ma guardi, allora, nella fase transitoria, a livello di, cioè, di quando sono state installate queste porte, c'è stato un momento nel quale non c'erano delle telecamere che servivano, che consentivano ai piloti davanti o al pilota rimasto solo davanti di vedere che cosa c'era dietro e chi tentava di eventualmente entrare nella cabina di pilotaggio. In quella fase era procedura comune che se un pilota si alzava e abbandonava la cabina di pilotaggio, entrasse un assistente di volo per poi fare fisicamente lui la riapertura nel momento in cui il pilota voleva rientrare, perché lui era in grado di guardare attraverso uno spioncino, vedere che era tutto a posto e apriva questa porta, perché il pilota che era rimasto seduto non poteva abbandonare i comandi per fare questa cosa. Oggi poi progressivamente sono state installate delle telecamere che istituiscono questa funzione, no? Per cui fino ad oggi di fatto era possibile rimanere da soli e attraverso questa telecamera con un monitor si vedeva chi voleva rientrare, si riusciva a vedere bene che non ci fossero problemi, allora si apriva la porta e la persona e il pilota rientrava. Voglio chiedere a Mencacci, professor Mencacci, tutti i piloti vengono sottoposti comprensibilmente ogni tot a test psicologici, psicofisici e anche tossicologici, quindi evidentemente può sfuggire la scheggia impazzita. La formazione dei piloti è veramente notevole e attentissima. Tra l'altro ne abbiamo anche uno in famiglia, per cui parlo con cognizione. C'è una situazione però dell'indagine sulle condizioni, si insiste molto sul fisico, meno sull'area psichica, anche e soprattutto perché non vengono tenuti conto da un lato dei fattori del cosiddetto burnout. La loro è una professione veramente ad alto stressogena, continuo cambio di fusi orari, alterazioni del ritmo sonnoveglia, ma soprattutto la non stabilità di luoghi dove si stabiliscono relazioni, affetti e quant'altro. E rispetto a questo, a questa grandissima richiesta di performance che hanno e al quale poi ovviamente sono ben esaminati, l'aspetto della valutazione della componente psichica è ancora molto insufficiente. Direi che è superficiale su questo, perché quanto è successo è l'esempio di quanto più si vada verso la tecnologia. Il 320 è un mezzo sicurissimo ma ad altissima tecnologia, ma dove l'errore umano e in questo senso l'imprevedibilità del suicidio irrompe in tutta la sua tragedia. Allora ci troviamo di fronte a una situazione altamente, come dire, non impossibile, altamente improbabile, visto che è il quarto caso in circa oltre 20 anni. È la condizione dove ci sono due errori: uno di procedura, forse non è entrato l'assistenza di volo come diceva il comandante, quello, ed è, come dire, forse non una procedura stabilita su quel volo lì. Ma l'altra cosa è il fatto che nessuno a questo giovane, proprio 28enne, che era stato anche fermato, se così è vero, a 21 anni nel suo addestramento per un problema di alta performance. Noi ci dimentichiamo l'alta performance che ad esempio c'è in Giappone, dove vedi moltissimi giovani che poi hanno azioni suicidarie per piccole delusioni, per fallimenti. E questo dobbiamo prestarci attenzione perché, come torno a dire, è totalmente imprevedibile, ma alcuni segnali li possiamo cogliere per tempo. Certo, soprattutto poi in ruoli che hanno una così grande responsabilità di vite umane. Prima di chiudere, perché proprio siamo un po' agli sgoccioli, Canestrari, lei conferma quello che denunciava un po' Mencacci, cioè di questi test che sono più fisici che non psicologici, proprio sinteticamente, Canestrari, si può? Sì, lo confermo. Ci sono casi nei quali se una persona lo dichiara nel momento in cui si fanno le visite periodiche, allora potrebbe, però è tutto molto, diciamo, è tutto legato un po' alla volontarietà. Non a caso in molte nazioni aeronauticamente evolute del mondo esistono delle commissioni che si chiamano Pilot Advisory Group, che vengono costituite congiuntamente fra le compagnie aeree e le associazioni professionali, che sono degli ambienti tra virgolette protetti, nei quali i piloti interessati possono accedere per raccontare se stessi qualora abbiano una situazione di sofferenza. Viene garantito una... Prego. Posso, l'unica cosa è che siccome se denunciano una cosa di questo genere smettono di volare, bisogna trovare un punto di equilibrio, cioè non sono persone fallate, sono persone che possono continuare a volare ma devono essere un po' monitorate in questo senso. Esatto. Mi sembra effettivamente, Canestrari, un'argomentazione di grandissima importanza. Immaginiamo che soprattutto poi dopo questo quinto episodio, visto i quattro precedenti, venga tenuta decisamente più da conto. Grazie a Riccardo Canestrari e grazie al professor Claudio Mencacci. Grazie, buona continuazione. Grazie a lei. Grazie. E adesso vedevo se ci sono ancora aggiornamenti su Manhattan. No, per il momento. Facciamo la ricreazione, poi ritorniamo con l'Unione Civili. 349-238-6666 il numero per i messaggi, poi la pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vedo molti vostri messaggi sull'Unione Civili. Vittorio Darimi che dice: una vergogna, due persone dello stesso sesso non saranno mai capaci da soli di dare una nuova vita, non c'entra la Chiesa, è questione morale che anche i vecchi compagni non approvano. Mentre Andrea dice: quindi posso inviare le partecipazioni, dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per l'Italia sarebbe un salto di civiltà tale da influenzare anche campi apparentemente distanti. Ne parleremo tra pochissimo, ma tra le notizie principali naturalmente anche l'aereo precipitato, si indaga sul passato del copilota della Germanwings che ha fatto schiantare di proposito l'Airbus, ne abbiamo appena parlato con uno psichiatra e con un pilota professionista. L'occupazione, Renzi e Poletti dicono nei primi due mesi 2015 più 79.000 contratti a tempo indeterminato, anche se si riferisce a dati prima dell'introduzione dello Jobs Act. Yemen, l'Arabia Saudita bombarda postazioni dei ribelli sciiti nel paese, le unioni civili, ne parleremo tra pochissimo, e Formula 1 torna Alonso nel Gran Premio di fine settimana. Dunque, come vi dicevo, oggi c'è stato il primo sì in Senato alle unioni civili, con 14 sì, 8 no e un astenuto. In Commissione Giustizia di Palazzo Madama ha approvato il testo base della relatrice Monica Cirinnà del PD, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e regolamenta anche le coppie di fatto tra eterosessuali. Si è creata una nuova maggioranza favorevole, sono PD e Movimento 5 Stelle, contrari hanno votato un nuovo centrodestra che sta al governo, Lega e Forza Italia. Saluto allora la relatrice, senatrice Monica Cirinnà, buonasera. Buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori. E il senatore Lucio Malan di Forza Italia, anche lui membro della Commissione Giustizia del Senato. Buonasera Malan. Buonasera a tutti. Allora, io con chiarezza e sintesi vorrei sapere dalla senatrice Cirinnà il perché sì a questa legge e da Malan perché no a una legge di questo tipo. Senatrice Cirinnà. Perché sì, perché siamo messi in mora dalla Corte Costituzionale che in ben due sentenze ha detto con estrema sollecitudine, queste le precise parole, il Parlamento si adegui a dare diritti alle coppie composte da persone dello stesso sesso. Quindi il mio titolo 1 che crea un nuovo istituto giuridico che non è il matrimonio, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che concede alcuni diritti, vieta l'adozione e mantiene, così come la Corte Europea di Giustizia ci ha indicato, tutti i diritti sociali, per esempio la reversibilità della pensione. C'è poi un titolo 2 che dà dei diritti minimi di civiltà, diciamo, di umanità, alle coppie conviventi, comunque siano composte, sia persone dello stesso sesso che persone di sesso diverso, per il semplice fatto di scegliere una convivenza more uxorio, acquisiscono alcuni diritti, per esempio assistenza sanitaria, diritti penitenziari, una graduatoria per un posto in un asilo nido. Chiarissima, piuttosto che una casa popolare. Chiarissima, senatrice Cirinnà. Invece Malan è contrario, però ricordo Malan che Berlusconi dal giugno 2014 ha avuto una grande apertura, in realtà una svolta sui diritti degli omosessuali, ha detto: quello per i diritti civili degli omosessuali è una battaglia che in un paese davvero moderno e democratico dovrebbe essere un impegno di tutti. Giugno 2014, poi la compagna Pascale sa che ha fatto molte aperture su questo argomento, e mi sembra che di pochi giorni fa la proposta di un disegno di legge di Mara Carfagna e di anche firmato dalla Prestigiacomo e da altre deputate. Perché no Malan? Allora, il testo Prestigiacomo e altri ancora non si conosce, io non lo conosco, non posso parlarne. Noi siamo già dalla scorsa legislatura favorevoli al riconoscimento di determinati diritti alle coppie anche di sesso diverso, e infatti la seconda parte del disegno di legge Cirinnà ci trova d'accordo, la prima parte ci trova, e quando dico ci dico noi senatori di Forza Italia della Commissione Giustizia, ma ritengo la grande maggioranza dei parlamentari e degli elettori di Forza Italia, contrari a una cosa che sia simile al matrimonio e che comporti le adozioni. Questo testo non si chiama matrimonio, ma a parte il nome c'è tutto del matrimonio, c'è il cognome, c'è scritto che se uno dei due partner muore l'altro si definisce vedovo, si parla di famiglia, ci sono tutti gli istituti del matrimonio, tranne l'adozione dei figli esterni alla coppia, ma quelli cosiddetti interni ci sono, e dunque siccome due uomini non possono avere un figlio sarà l'utero in affitto, oppure insomma comunque bambini che vengono privati preventivamente della madre o del padre per un disegno per darli a queste coppie. Su questo la grande maggioranza degli italiani è contraria. Dobbiamo ancora capire come si troveranno i soldi perché pagare queste reversibilità, che senza dubbio sono reversibilità nuove, sono oneri nuovi che finiranno verosimilmente a carico di tutti quanti, anche delle famiglie. Quindi diciamo è anche un problema economico più che ideologico. 20 secondi ancora, no, per ognuno, anche, per ognuno. È uno degli elementi. Cina, proprio allora, 20 secondi ognuno. Non chiunque, posso più. Chiunque di voi può andare sul sito lanotizia.it e trovare uno studio accreditato di noti economisti che dimostrano come la reversibilità della pensione non inciderà assolutamente sulle casse dell'INPS, se non altro perché è pagata dagli stessi omosessuali che lavorano e che versano contribuisce la loro quota. Io poi dico che negoziare in termini economici sui diritti degli altri è una cosa assolutamente incomprensibile. Per quanto riguarda affidamenti, adozioni e gestazione di sostegno, perché mi rifiuto di usare termini insultanti, la mia legge non prevede l'adozione legittimante e non modifica la legge 40, quindi nessuna eterologa per le coppie same sex. Malan, proprio sintetico, se no mi chiudono tra poco. È curioso perché gli stessi che dicono che ci sono pochissimi costi per le coppie omosessuali sono quelli che dicono che in Italia ci sono centinaia di migliaia di bambini nati tra virgolette dalle coppie omosessuali. Bisogna mettersi d'accordo, o è vera una cosa o è vera l'altra. La realtà è che i bambini sono molto pochi, ma quelli che usufruiranno della pensione di reversibilità anche perché non hai il nome impegnativo di matrimonio saranno molti, ci saranno usi e abusi, e anche se sono diritti, se fossero diritti sacrosanti, questo non fa spuntare i soldi dal nulla, da qualche parte i soldi dovranno pure arrivare. Comunque l'iter procederà ancora, ne avremo modo di riparlarne. Grazie alla senatrice Cirinnà, grazie al senatore Malan. Buona serata, la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, in pochi secondi, ancora molto da raccontarvi. La strage voluta dal copilota, questa è stata la svolta oggi a proposito del disastro aereo sulle Alpi francesi. Poi vola l'occupazione nei primi due mesi del 2015, più 38,4% di contratti a tempo indeterminato. E poi l'Arabia Saudita che attacca in Yemen, dove c'è guerra aperta. Le unioni civili, primo sì al Senato, ne abbiamo appena parlato. E poi il ritorno di Alonso in Formula 1. Europa 24 notte. L'Europa bacchetta l'Italia, ma pensate, questa volta non per ridurre il debito, per tagliare, sforbiciare la spesa, ma per spendere. All'Italia infatti restano da spendere 7,6 miliardi di euro di fondi europei. Deve fare tre volte quello che ha fatto lo scorso anno per arrivare al 100% della spesa dei fondi delle politiche di coesione del periodo 2007-2013 entro dicembre 2015. A parlare così è la commissaria europea per le politiche regionali, Corina Cretu, che ad aprile sarà in Calabria, Campania e Sicilia. Incapacità di programmare, lentezze burocratiche unite ad un contesto politico spesso instabile, sono questi, secondo il commissario Corina Cretu, i motivi alla base dello scarso utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei, quel tesoretto di soldi pubblici che Bruxelles assegna per investire in progetti che contribuiscano alla crescita economica. La responsabile europea delle politiche regionali ha strigliato il nostro paese. Il 31 dicembre è il termine ultimo per presentare le fatture a Bruxelles e all'Italia restano da spendere ancora 7,6 miliardi di euro. Una corsa contro il tempo, dunque. L'Italia, ha detto la Cretu, deve fare tre volte quello che ha fatto nel 2014 per arrivare al 100% dell'assorbimento dei fondi del periodo 2007-2013. Il rischio è perdere una parte dei 28 miliardi di euro che le sono stati destinati per i sette anni. Già un anno fa la Commissione aveva sottolineato come i rallentamenti nella spesa dell'Italia erano provocati soprattutto da problemi nella capacità di gestione dei fondi, tali da lasciare il nostro paese ben al di sotto della media UE nell'assorbimento dei fondi, solo il 67,5 contro il 78,5. E se spendiamo poco è perché non siamo capaci di farlo, e quando lo facciamo però spesso capita di farlo male, su progetti irrilevanti o peregrini o con interventi poco incisivi e poco mirati. Intanto dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta al governo sulla destinazione di questi 7,6 miliardi di euro ancora non spesi. Francesca Businarolo. Questi sembra che ci siano 7,6 miliardi che l'Italia deve ancora destinare, deve ancora spendere. Sono soldi che l'Europa si riprenderà a fine 2015. È già successo che l'Italia non riuscisse a spenderli ed è l'Irlanda che ne ha beneficiato facendo delle autostrade, comunque delle infrastrutture. sinceramente si poteva fare di meglio con questi soldi. Quindi noi chiediamo adesso, siccome sono fondi che l'Unione Europea destina ai governi, agli stati per diciamo così diversi motivi, chiediamo che il governo, nella fattispecie il sottosegretario Del Rio, che di solito di queste cose si occupa, di verificare con le regioni dove dovrebbero essere destinati questi fondi. Perché? Perché se non c'è una reale destinazione, piuttosto che vadano nella classica sagra della porchetta che è già successo in precedenza, ci piacerebbe che ci fosse una destinazione più intelligente, magari proposta, potrebbe andare in Unione Europea e fare e chiedere che questi soldi vengano destinati al reddito di cittadinanza, in generale alla lotta alla povertà o magari per nuovi posti di lavoro, insomma, addirittura c'è la Polonia che nella gestione di questi fondi è più avanti di noi, perché la gestisce a livello nazionale il governo, invece qua da noi sono andati un po' a pioggia e dovremmo quasi quasi prendere da esempio la Polonia, che di questi fondi insomma ne fa miglior e un buonissimo uso. E intanto la Commissione Europea, per migliorare modalità di spesa e di gestione degli investimenti, lancia una nuova piattaforma dotata di una vera task force destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di competenze e delle migliori prassi in tutta Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Quasi come una pilota di Formula 1, da Antonio Boselli di Sky TG24, giornalista di Sky. Ciao Antonio Boselli. Buonasera a tutti. Ciao Antonio. Allora, è ufficiale, Alonso torna in Formula 1 questo fine settimana, quindi sta meglio, incidente sorpassato. Sì, diciamo che comunque tutta questa saga non si è conclusa. Lui ha fatto delle visite ed è stato monitorato praticamente in questo mese più che è passato da quando ha subito questo incidente a Barcellona, quindi ritorna regolarmente al suo posto sulla McLaren, ha saltato la prima gara. Il fatto vero della giornata è che ci sono due versioni contrastanti sulla dinamica di quell'incidente, perché sappiamo che Alonso è andato a sbattere a Barcellona durante il test il 22 febbraio e oggi lui ha detto che si ricorda perfettamente quello che è successo. In pratica ha sentito uno sterzo molto pesante ed è andato a sbattere proprio per non tanto l'impatto, perché non è stato tanto forte, ma per l'angolazione di questo impatto e del trauma che ha avuto cranico. Lui dice di aver avuto delle amnesie, che però non sono così gravi così come sono apparse sui giornali, ma il fatto vero è che la squadra continua a sostenere che la macchina non ha avuto nessun tipo di anomalia, quindi bisogna capire dove sta la verità tra Fernando Alonso e la McLaren. Infatti lui continua a dire che, però vedevo che ha detto è la più sicura del mondo, poi non so, evidentemente deve anche sostenerlo, visto che per quella esatto, tra l'altro bisogna anche ricordare che c'è già stata una prima storia tra Fernando Alonso e la McLaren che non si concluse bene nel 2007, perché ci fu un divorzio anticipato, aveva 3 anni di contratto, ma poi litigò con il capo della scuderia Ron Dennis e lasciò quella scuderia. Poi per forza di cose, anche perché la passata stagione, quando ha lasciato la Ferrari, poi non aveva altre alternative, è tornata alla McLaren e subito questa avventura è riniziata con un vero e proprio giallo. Adesso bisogna vedere come andrà a finire. Speriamo di vedere le macchine, speriamo di vederlo veloce, però sicuramente questa è una vicenda che non si chiude oggi. Grazie Antonio Boselli, buon Gran Premio allora. Grazie. Ciao Antonio. Ciao. Ci sentiamo tra poco.